Cosa ci stai facendo, cioè? Mia, ti ho mandato un massaggio. Allora, quando parte bene la stufa, poi esce una scritta, c'è scritto Seru, Marina ha letto il manuale e ci vuole un tecnico per fare una messa a punto, perché ha fatto già le sue ore di accensione, capito? E fa quel difetto lì. Dove andavi? Io ho messo il pellette a mente, quello che ho preso dagli rossi. E va bene, lo pulita, te l'ho detto. Se ne pulita. Hai letto quel messaggio che ti ho mandato? No, che messaggio? Quello lungo su WhatsApp, leggilo. Ehi, avanno, ce l'ho sotto carico il telefono. Ti avevo mandato un messaggio io. E vabbè. E cosa c'è? Che messaggio è? Se non lo leggi non te lo posso, cioè, non ha senso. Lo devi leggere. Capito? Ciao Vittù. Allora, non c'è niente, c'è solo quello che ti manda qui. Oh, non c'è niente. Ma su WhatsApp? Sì, no, non c'è niente. E adesso c'è? Questa è arrivata una scritta, aspetta lei. E leggi dall'inizio, storia vera. Aspetta, ho detto che quella è una storia vera, sul tram è successo. Grazie, sto parlando quello che credi che ho fatto su da destra, eh? Ha detto che sto facendo quei PMR che ho fatto su da destra. E quando? Già in gioco, mi chiamo di fermo domani. Ho capito, quando? Domani. Capito. Hanno abbassato sui prezzi, l'ho visto, perché prima che costavano 50 euro e poi ci hanno abbassato sui 45, mi sembra, un buon rosso. Già è buono il prezzo. L'ho letto, per studiare bene a faccia, di giù. Ma... Guarda quello che ti ho mandato io, lui. Aspetta, qui c'è coso, Vittorio. Ciao Vittorio, già ti sento adesso. Ma sei grazia? Già ti sento. E se per caso ti capita che devi venire, mi devi avvisare prima, così se c'è gente, te lo dico. Capito, pure che non ci sono, me lo devi dire prima che passi, capito mi hai? Eia! Sto coso passando vicino alla casa di 4, ce l'ho per la galleria. Ma chi già mi ha salutato? Hai visto lì apita, io non lo so dove apita. Se me l'ha detto lui, vicino, in pratica c'è una corsia dove c'è, in pratica ci sono anche i distributori, c'è una corsia, lì a sinistra lui abita in quei palazzi. Eia, vabbè, tanto io non ci devo andare dunque. E beh Luca, il balletto sardo ho visto là. Luca caduto sì. Mi sa che Luca diventa mio zio perché conosce anche mia madre. Ah, è tuo zio. No, adesso prima che diventa mio zio. Eia. Luca, mi sembra un po'... Oh, ma a proposito Luca, ma... Caduto, non sta più parlando. Camari, che facendo c'è? Ehi, non mi tocchi. trasalato, che sei graziano. E posso immaginare, sono l'unico che si gode il boffà. Passa la palla, ecco Ciotti che sta giocando, tiro, gol! Sei bravo, bravo, continua così, Corriera. Lettere. Segnato a Riva, Gigi Riva, e beh, così la gara. Ciao Giammari, piccolo piccolo ti sei. Oh, è perché sono piccolo io, ma sono grande come sei grande tu. Piccolo e nero come Calimero. Luca, ebbene, hai guardato il pastoretto? Sì, già l'ho visto. Hai visto quando l'ha detto? Ti giocava l'amico, se fosse con un capo mette la piccola. Di la verità, nemmeno una tramata vi fai, nulla. Luca, schiacciato più. Dio Mari. Vive. Sentito mia cosa ti ho detto? Non ho capito. Ho detto, se mi hai sentito cosa ti ho detto. Non ho capito però. E cosa mi hai detto? Ripeti. Ho detto che di Graziano non se ne può fare né cacio né lana né tramazza. Vabbè, lo sappiamo. Ah, se lo fai, almeno fa carriera fa. E allora, da Sassenti, bacio capitano. Dove stai, Lugo? Solo lui può fare queste cose. E allora, solo lui. Vabbè. La stufa è risolto l'hai, sì? No, la stufa ha bisogno di un tecnico, perché ha superato le ore di accensione, capito? E ci vuole un tecnico, vorrà tarata, non lo so, boh. Fa sempre così, a tre si riempie il coso, diciamo, il portapellet. E niente, fa una fiamma brutta. Sta lavorando molto male con la stufa, molto. Ho il pellet, ma non ci credo. Sarà garanzia che sta stufa tutta l'altra presa. Cosa c'è? Meno di un anno. Ma c'è la garanzia, no? Così che dovrebbe venire loro, il tecnico, a metterla a posto, no? Sì, però lì, quando l'ha comprata, non ha chiamato un tecnico per fare il primo avvio. C'è la prima accensione, scusa. Sarà accesa lì, capito? E non vale, perciò deve pagare e risolvere il tutto. Quello è. Sì. Io pure quando l'ho presa, chiamare il tecnico io, capito? Almeno per la prima volta. E già l'ho chiamato, però dopo che non l'ho fatto giocare, non l'ho fatto, è venuto e ho dovuto pagare 150 euro per metterlo a posto, capito? Un mese che la via, capito? Ho preso 150 euro, non ho chiamato più, per cui la stufa la sto pulendo sempre io, è perfetta al 100%. È un macello, è lui, è un macello. Adesso la garanzia lì non c'è più. Cosa vuoi ti dica? Non lo so. Adesso vediamo se riesco a trovare un amico che fa questo lavoro. Qualcuno già lo conosco, ma vediamo un po'. Perché cioè, il pellet scende troppo, non se la fa buscarlo. Non so cosa sia successo. Se lo vuoi, il tecnico buono che è venuto anche qua una volta, e anche da mia figlia ci va molto spesso, perché la pulisce a mia figlia quello lì, ma è bravo, è bravo veramente, di Porto Torres, ma è bravo veramente tu. Se non vuoi lo chiamiamo me. E adesso vediamo un po' cosa dice Marina. Vediamo un po'. Anch'io ne conosco uno che è molto bravo. Che faceva questo lavoro, adesso ne fa un altro tipo di lavoro, ma lui piace la super pelle. Le piazza, quando capita, se passa le piazza. E fa anche se le controlla, ecco, è bravo, se vediamo un po', secondo quanto vuole. E questo è del mestiere, capito? Questo è del mestiere, a conto di una ditta che piazza, che vendono queste stufe, capito? Questo è un tecnico proprio apposta, te la smonta la stufa, te la smonta, te la, non ha la zetta, è un bel bravo, sì, è del portatore, l'ho visto che è molto bravo, sì, vabbè, eventualmente già lo sa che io lo conosco e per cui abbiamo anche il numero del telefono, eventualmente me lo dici e ritelefoniamo, se no, se non riesci a fare come tu vuoi, capisci? A saprà arriva la padrona, te lo dico. Avanti, grazie. 5 minuti per me che devo guardare un video un attimo, dai. Ehi, ciao, ma il tecnico te la guarda e vedi cos'è. Così vuol dire così può. Siccome mio figlio ce l'ha precisa, la mia no, la sua c'aveva sempre la fiamma bella, alta, che era un bombone, ma precisa e la mia invece la fiamma sempre bassa. È venuto questo tecco, l'ha regolata, ma è la stessa cosa, non funzionava bene. Allora sai cosa ho fatto? Ho chiamato quello lì, me l'ha programmata direttamente lui. Ma se tu lo vedi adesso questa qua che è un bombo, e poi non mi bruciava bene prima, capito? Mentre che adesso, è un bombo, ha bruciato tutto, qualsiasi tipo di pelle. E la fiamma è sempre alta, bella sì. Come tutto il suo, magari quando raggiunge una certa temperatura è chiaro che si ammassa la fiamma e dopo ricomincia, capito? Ma prima era bassa, sempre bassa, lo scaldava mamma. Mentre adesso, ovvia, per due, lo accesa alle 5. È un casino che è un bombò. Certe volte una cazzata, era una cazzata. Questo qua ha preso il computer, c'è l'attacco di dietro, e l'ha fatta tutto come quando si programma completamente. E grazie a Dio sta sempre funzionando. Io ho già 5-6 anni e sta andando sempre bene. Sempre bene, non ho cambiato mai niente. Tutti insieme, e non dice ci vuole una presa d'aria, non c'è aria, non c'è stato, capito, deve avere appena d'aria, ma come sai tu? Canta quello là, perché sono vicino alla porta, ci ha fatto un buco, ha fatto un buco alla scala, dice per quello che dice che le bruciava bene, perché entrava aria e le bruciava bene. Canta lì adesso. Dice che ci vorrebbe un buco per avere un po' d'aria, ma cosa buco? Un buco non le faccio, cazzo, se la vedi adesso buco, bisogna buco, c'è cazzo, ognuno si rasoia, a tecnici lì fatti di biennale, cazzo, chi ci sono tecnici improvvisati, ci sono pazienti tecnici, ma vai, io l'ho chiamato una volta. Abbiamo andato il servizio che ha fatto, l'ha pagato 120 euro, ma poi su mezz'ora ne manco. E non la ripicciavate, e tutti i vizi che ha fatto questo me lo posso io. Ma infatti io l'ho vista la prima volta come quello là, l'ha smontata, no, a pulirla. Attento a me, attento a vedere un po' cosa faceva, cosa, com'era. Ho visto che come fatto, da allora la sto pulendo il sueño, ma io pure la smonto. Se voglio ritolgo tutti quanti e la pulisco proprio a perfezione, ma cosa? Non c'è bisogno, tocco un pannello, anzi due pannelli. E la pulisco tutto completamente, ed è un bambino, lo rimpiazzo come tutti gli altri, però questo lavoro lo faccio appena che finisce il freddo, che non l'accendo più, allora io dopo una settimana io risacco, la pulisco bene. Ma tutte lo smonto e dopo tu la piazzare, la provo, se funziona, e la devo a chiudere, boh, fino all'anno prossimo. Ma, uia, ma un bellietto, no, non ne sa fa, e ciammani, lo tecnico, no, io questa ce l'ho, ho guardato l'altro giorno, 9 anni ce l'ho. Ma lo so, questo che conosco io, ripeto, perché è andato da mia figlia e catterà su Falmova, ragazzi, l'hanno fregata, c'è la caldaia per i radiatori, quella di mia figlia, no? Là tutta bella smontata, bella, siccome gliela avevano data senza ventola, invece lì era pagata quella ventola pure, capito? Per riscaldare sia con i radiatori e poi se vuole c'è la ventola, attacca la ventola pure e scalda anche con la ventola, capito? E gli hanno dato senza la ventola. Quello là è venuto, ha fatto arrivare la ventola, gli ha piazzata, la vedi gatto, è una meraviglia, gatta. Ciao Sergio. Però ci vuole la manutenzione, un bel gente non ne sa fa, tu preso, di no si buttano le mani. E allora già, ma in secondo grado, pure qui la vira buru alla pavallera e non ne ha fatto nulla, hai capito? Io ne conosco parecchi che un bel se l'hanno venduta oppure se l'hanno lampata. A chi la rimandano a smontare a pulizia, e allora, figlia della stufa a gas. Io saperò sarà poi, tu già lo sai, già c'hai il computer o il tablet. Entri, catta, come si e dici tutto il difetto che c'ha questa stufa, come, non è cosa deve fare, dice tutto nel suo computer, c'è bisogno di tecnico, dice tutto quanto la computer, tu puoi fare quello che vuoi, come abbiamo fatto noi, capito? E per cui così devi fare, già lo conosce il computer, per cui tu puoi riparare tu stesso se entri in quel sito di quella stufa. Io vado giù tutto, anche il libretto, tutta la stufa smontata, cioè disegnata, scritto questo, va pezzo, cosa si sostituisce, cosa non sostituisce a 8 anni, beh, scritto tutto, come si smonta, come si piazza, c'ho tutto nello schema. E poi volendo guardo nel computer, c'ho anche il telecomando io, questa la posso programmare e sa tenersi su da rasura. Solo non ho mai usato io il telecomando, tanto sono così brincata, cosa mi tratta qua. È bello che deve fare così, entra in quel sito, a dire cosa, che difetto fai, e ti fa vedere come la riparano, che c'è filmato, no? ti fa vedere il filmato come smontare, come ammontare, cosa ci vuole, cosa, capito? A scrivere tu come cosa, che difetto fa, e nel tablet ti fai fare i film come la cosa deve fare, cosa deve fare, tutto ci dice, capito? E non c'è bisogno del tecnico, capito? Ha fatto tre volte questo lavoro, è bene, sono una volta, si era boccata, ha preso il computer, il tablet, è entrato in quel sito, infatti il motore, la vite che fa girare il motore, capito? Io ho visto, ci dicevano come fare, e l'ho stretto bene la vite, l'altezza, perché alza e scende il perno dove c'è la vite, no? Abbiamo la carta e stringiamo, alza si vede, aspetta che mi rende, che c'è un muro qua, è un po' per dire no. Su quel sito ti dice tutto quanto, perché ti fa vedere come devi fare. Sì, già lo so, già l'ho visto io, che mi ho controllato il modello della tua famiglia, ho guardato tutto e poi c'era il filmino, come era smontata, come era quel pezzo, ho tutto, l'ho visto, il tecnico l'ha smontata, la tua uguale alla mia. Perché ho scritto quella e quella mi hanno fatto vedere, capito? È come Baracchini, ho trovato una frequenza dove ti fa vedere le schede, per mettere la scheda gold, cosa devi fare, cosa non devi fare. Praticamente era la stessa cosa, ti fa vedere tutto. È così, infatti, tutto fa vedere, tutto da là alla testa, fila come si infila una vite, anche quello, per dirti, oh, tutto ti fa vedere, per cui è faccia riparare, certo. Per cui se c'è da regolare, la può regolare anche lui, se guarda bene, ci vuole pazienza, deve mettere piano piano, guardando quello che dice, che dico lo devi fare tu, così che ti dimostra come farlo, e per cui non è un problema, capito? Tutto lì. Luca non è riuscito a zero, grazie a Dio già ne sa fare di cose, per cui è facile anche a controllarla. Capito, hai Luca? Che te lo posso fare? Se riesci a farlo tu è meglio, perché il tecnico, una volta che vedi, poi dirà, e quando dirà non vi so, e gli dà ragione. Ciao Gio Maria, dai. Ehi! Non c'è male, mi sento più bene oggi, dai. Oggi mi sento più benino. Cazzo, una settimana che non esco, Una settimana. Oggi già mi sento più benino, che però non esco fino a che non sono perfetto al 100%. Forse, se Dio vuole che tutto va bene, domenica già esco, là. Almeno me ne farò in campagna a vedere un po', che se va per che non ci scendo. Vabbè, importante che stai meglio. Luca Zaffardo, grazie. Ha detto dove va, cosa, mezz'oretta, uscì mi pare che ha detto. Riprenditi Miro con Vittoria, rientro subito. Vado a cucchia a piccolino. Anche io devo andare in ufficio, a dopo. A dopo a tutti. Stavo guardando su su YouTube, ma un casino, capito? Devi tenere premuto il tasto per 2 secondi, il più, poi entra nei parametri della stufa. È un casino, secondo me è troppo sporca, la pulita marina, i tubi sono puliti prima di... quando c'era ancora caldo, no? Era tutta pulita e niente, ma li sono di nuovo sporcati perché visto che stava volando male. Ma se ti ho detto, se tu la pulisci bene, come ti ho detto io, beh, cambi il pelle, se vedi che la stufa lo valuta, e la raghi a 3 farò, io non so quando in punta e punta, è sempre a 3 la mia. Anzi, quando fa freddo, freddo di più, la solleva ancora 1-2 tassini, capito? Boh, non so voi. E mica una cazzata, si deve appintare, lo so, ci vuole pazienza. E io mi sono portato sulla terra laggiù di montato giù. E ci ho messo una mattinata insieme a mia figlia, mi ha aiutato lì a pulire il tubo, poi sul tetto, è salita mia figlia e io non l'ho brincato. Gli ho detto come doveva fare, l'ho guardata, io lì mi ha sfilato il tubo e tutto quanto. Per dire, l'avevo pulito così a mano, non l'aveva costurato. Ma a me l'ha pulito, invece no, sono andata alla bricca, mi ho preso quella palla che pulisce i tubi, si registrate nei cidrugocchi di Mondetta, perché era tutta attaccata ai tubi, capito? E l'hai pulito veloce e puro lì. Adesso quando la spenderò, la pulisco più bene. I tuoi tubi, li posso lucidi, lucidi. A chi era tutta attaccata a questa bucalia di ciubelle, se? Ai tubi, capito? Erano anche umidi da quella porcheria che ha bruciato. Immagino, sicuramente questo qua lo comunque si vede che questo pellet ce n'è chiaro e scuro e misto, guarda che infatti adesso sta facendo la fiamma alta, alta, e si vede nel pellet che è fermo nel bocchettone, il braccierino è pieno, allucinante. Così ti rovina il braccierino come ha fatto a me, perché non spiazza bene la ventola. Non brucia bene, si intasa il braccierino, surriscalda dentro e ti si gonfia e poi si spacca sotto dove ci sono i buchi. Ce l'ho io il vecchio qua a me. Cacca di prendere il vostro video, cosa arriva dal braccierino, nonostante sia grosso ed è di ghisa, te lo crepa. E a me mi ha fuggito i buchi. Lo so, lo so. Basta, vediamo cosa dice una bene marina, io alla fine non posso tanto l'abbiamo, ce l'hanno portata, l'abbiamo piazzata, ci siamo dimenticati, non ci siamo resi conto del c'è un coso mollato, un fianchetto, e infatti quando la metti a 5 vibra, fa un casino nero. Lì sicuramente hai perso la vista, se tu guardi nei lati, nelle scanalature, ci sono le viti a croce, se vibra un bel, o se all'interno o con le vibrazioni l'avete persa la vista, e devi guardare se sotto la stufa oppure se l'avete mondata, e se non ne procuri un'altra gliela metti. Sono così strani oggi, poi non c'è problema, sono la piccola già su di me, mi compro dalla stessa misura. A me ne ho le vibrazioni, ne è cita, è la usa baoletta, mondenne, ma di tu mia già ho giù, vicino quasi sotto la stufa, e la chissà vita, e la giusta, boh, e dammi, e l'ho messa a parte. Il giorno che l'ho tutta pulita e smontata ho visto che ci mancava la vite ed era quella vite. Allora l'ho presa, l'ho conservata, gliel'ho presa e gliel'ho abitata ed era giovedì 30, a chi vibrava, compreso. E adesso già va bene. E poi quella era proprio la vite sua. Sì, al limite già ne ho a casa, io le compro ogni tanto la bustina da piccola. cioè dei barattoli pieni, viti, buloncini, dadini, eccetera, eccetera. E anche io già ne ho, oppure quando ci butto radio, ho cose così, no, le smonto le viti, settoni di fili, il filo con la presa attaccata, in genere quelle cose nelle strappe, scusi, la puntitura, e anche tutte le viti piccoline e grandi ne le smonto. Poi se presi viti, ne ho viti, ma per dire, boh, vicino alla stufa, la chissà sicuramente di la stufa, infatti era di la stufa. L'ho messa qui nella credenza dentro una tazzina trasparente, questo mi ammentava di chissà vista in caso non l'avessi dovuta smontare, che la beve della sua. E infatti se la ribocca si è avvicinata a vita. Così è. Ci vuole un po' di manutenzione, basta avere quei tubi, non per vedere la montessa che non le basta da quei tubi. La busta di più di chissà che ne avevo bucato costruita a mano così, mi è uscita, la 30 di giù, che era tutta attaccata. Beh, certo. E infatti ti ho detto di comprare solo abete e basta. Ehi, abete devi pigliare. Io ce l'ho, l'ho messo lì, c'è il mazzone. È uno spazzolino che si avvita, è azzurro. E lo pulisco con quella e c'è il tubo. Quando arrivo il rabbo lì. E si luce, si luce. Perché è plastica rigida e lo sfrega proprio. Ne stacca tutto lì. Ci abbiamo anche noi, ci abbiamo 4-5 prolunghe, mi sa 6, boh, perché è un bel lungo il tubo, capito? Ma io non essendo tutto, ne smonto giusto, le pongo la busca in capo, lo faccio a pezzo, e poi a pezzo lo pulisco, se la pulire è mancato questa buca di arrivera, no, non è, che l'ha detto, che la balla, manco per la fatica a fare a tiro, mi ha divulgato da sotto la buca. A che non tornava andare giù. Dunque tu figurati che andrà brutto il tuo tubo di quella cosa collosa, bussinosa. Infatti la gita a me figura, mi sa che mi compare che farmi i tubi di scorta, sino che a puliti nel vostro mazzo, dunque voi puliti con calma. Ma infatti, vogliamo puliti con calma, sì. Ma io lo sai cosa devo fare. Mi prendo le misure degli spezzoni del tubo, me li copro, quando la pulisco tutta ci metto in uve e niente, con calma me li buco in natalo del razzo. E il vostro lucidi, lucidi. A chi sono ben brutti i miei drenti, ci sto dicendo di quanto era collosa, si è attaccata all'interno dei tubi. Certo, ma c'è la plastica in mezzo anche. Ehi, c'è montezza in quel pellet, sta dritto che io ne ho sgranato un paio di pezzi qua sul tavolo, su queste scosse, e in mezzo sta già avuto le graffette dei giornali anche, quelle graffette dei giornali, delle riviste. Sì, sì, ho capito. Certo. Comunque, è una cosa che devi tenere conto. La gonfia, io l'ho pulita ieri bene bene il braccierino, sai quei fori che c'è al braccierino, quelli li ho dovuti pulire perché erano intasati, no? E niente, però boh, secondo me ho sto pelletti che non serve a niente, tanto l'ultimo sacco quello. Ehi, sono tornato! Ehi, è il pellet, te lo so con i denti, è il pellet. Se tu poni una tubella che solo abete e pulisci la stufa e anche tu adesso ti devi pulire, chiamata ringaggiati tutti i tubi e vedrai che la stufa non va a nulla. Non ci vai, cosa ti ne affusci, interessati di quello, poi se non hai tempo vado in campagna, se no la campagna è sempre lì. Quello è più importante adesso che c'è freddo, sei qui e... Ma infatti, facciamo una mano. Prima di tutto, bisogna staccarla dal tubo coricarla e stringere qualcosa, quel fianchetto, perché vibra. A coricarla ve ne bisogno, la inclini, uno la mantiene inclinata e tu guardi e cerchi di stringerlo. Io mica la dico cadente, ma la inclini, l'ho inclinata, l'ha mantenuta mia figlia e io l'ho avvistato. La signora del negozio, la cosa che si faccia uccidere. La mia fa 9, ha fatto 9 anni la stufa di giù, però la pulisco ogni di unia santa di... Io la puliamo ogni giorno, il tubino era di attaccare, cioè puliamo quello, come si chiama, quello che c'è dietro, no? Tu c'è il bollone, no? Invece io non ne ho, c'ho il tappo. No, da me sta col tubo, lo tiro così. Me lo levo la L, che c'è quel tipo che entra dentro la tuba e poi va dritto, va sul tetto. Quello lì c'è un gommone all'interno e sotto con un bullone. Io quello lo levo e si chiama dispezione quello. E lo pulisco, c'è sempre cenere. E lì si può pulire. Come ripuliamo il tubo, siccome il tubo di marina tende a salire, non è dritto, capito? Tende a salire. Questo di spiecco, diciamo, là. E poi passa in cameretta. E poi va a finire fuori in terrazzo. Quello lo devi fare, allora stacchi la, sposti la tuba, levi il tubo, chiudi una busta e gli metti la busta. Ne smotti quel pezzo e si pulisci bene quel pezzo del tubo. Poi prendo la busta, quella busta se non è piena, prendi l'altro pezzo del tubo e lo pulisci bene. Devi fare così, a tubo, a pezzo, io lo posso così, pure che non è molto alto, lungo il percorso. Le pulisco così a pezzo. Poi ce lo rimetto, controllo le guarnizioni, si vuole chiamare, li chiamo, me le ho comprate in più, le guarnizioni, ce le ho, e anche la corda per un eventuale domani, per il vetro dello sportello. Quella si consuma, dunque voi ci ammada col tempo, e ce l'ho comprata. E ho comprato anche il silicone che si mette adatto per le guarnizioni. Metti un filo di quella specie di silicone e poi metti la guarnizione. Sì, infatti, facciamo così. Le guarnizioni sono tutte nuove, però già se non la vedo, quando la smonto vedo il tutto. Magari lì nel pochettone che è un po' intasato, sarà sporco. Ehi, a me quel pellete mi ha arruinato un bocchettone, di bingo, tutto colloso. Oh, sembrava catrame, sembrava. Con la puta cacciata grande, l'ho alzato così, catrame sciolto sembrava. Di cantuera niente, tutti noi, bianco oggi. A chi fa di appunto bianco, te l'ho detto, no? Sì, quando la mia è in quelle condizioni, col pellet lì nel pochettone, dove c'è nel pellet, diciamo, che va a finire poi nel braccierino lì, adesso è raccolto. Se ti metti vicino c'è un po' di puzza, fa puzza. Lo so, fa quella puzza puzzinosa, già lo so, la chino che non rinchiudia, ma è picchiato tutto. Mi sono ammazzato quando era presa che l'ho smontata per pulire, ma crebato. Fino una volta sono entrato in bagno a Castagni Luce e mi ha comprato anche le mascherine. A vedere se c'è passato lo stesso quel tizio bianco bucinoso e la furigine finettina, va via, non ha solo intasato. E bocca lo stesso, ragazzoni. Lo so, grazie, adesso puoi qua. Adesso vediamo cosa dice la signora. Se non lo vuoi fare tu c'è amaro tecnico, però non lo so quanto ti prenderà a pulirla tutta, a controllartela. Penso sulle 150. se la pulì la smonto io, la pulisco io, non devo uno dal tecnico. Al limite lo faccio venire, ce lo farà venire per i parametri. La pulizia gliela faccio io, non so come che da 150 euro all'etro. Se la pulisci tu e poi la provi, la buona tre la provi con la bete però. Beh certo. Il tetto non sono diventati cari. A me la prima volta che me l'ha fatta a 120 euro, la dice che è nuova la stufa, cosa ha mai pulito? Era già pulita, era 120 mi deve dare. E deve accumulare che non fa tribuno. Che chi si è inaccurato fa a me. Ma ti ha lasciato qualche ricevuta? E un foglio di quelli di blocchetto mi malagate, ma con un timbro del negozio, perché c'hanno il negozio qui. Sono pagato molte volte quando capita che devo fare, che mi chiamano male per comprare qualche attesa, e faccio prendere due passi, ma la benzina la pago pure. Già, gli vai a chiedere 20 euro, ti fai dire la faccia, tu pensa che chi non paga. Allora, il giorno che è venuto quello del frigo, io sono fatto un esempio, no? Ci ha messo, se o no, 10 minuti, 40 euro di acchetta marina. Dopo mezz'ora il frigo non andava più. Gli ha detto il tipo che lo doveva buttare. Ma cosa glielo controlli a fare che se il frigo è da buttare? Comunque gli ha voluti lo stesso 40 euro. Ehi, ci fanno pagare la chiamata 40, 50 euro, non hai capito? Da poi la conto o non la conti, oppure vieni, te lo controlli, dici ci vuole questo e questo, e spende tutto. E a te non ti conviene, sempre la chiamata mi devi dare, ti ridomanda. Ma infatti, adesso vediamo cosa dice, da. Comunque a pulirla la pulisco io. Infatti a Maria gli ho detto che mio fratello lo c'ha anche il compressore, gli compra anche un compressorino piccolino, così si porta in terrazzo, che si soffia bene così, tutta pulita e perfetta. Non c'è bisogno con l'aspirapolvere la stufa la pulisco già, ma io mi ho comprato anche l'aspirapolvere, la salito che andava giù alla briccola, l'ho pagata con gli sconti 60 euro, però questa è enorme e aspira anche l'acqua. Sì, beh certo. Dai perché scatto, vedi proprio un filo, perché il vetro te l'ha fatto tutto nero, vedi solo un pezzettino per vedere se come sta andando. Si copre quello non vedi più niente. Lo so, già lo so già. Quello è il pellet che non serve. E oramai adesso la stufa la devi pulire per forza. Perché anche se tu gli dai una pulita così e magari li boni la bete, è sporca e non ti funzionava, capito? Tutti i tubi sono intasati e non funziona bene. Devi pulire tutto. E poi ci provi la bete, solo la bete. Un casino, Vabbè, bisogna che tu belle te fate le bustiduli, l'altra volta l'ho preso, meno male me ne sono accorto, era un bulloncino da 10. Infatti quando fa, si mette la stella nell'avvento la fa un casino, ma così fa. Ehi, perché è sporca, te lo sto dicendo, e gli viene un bel brutto. A me mi l'ha intazzata, te lo sto dicendo. Ma di poi su un manzano con me figliola, ma alla una era pronta a pranzo, non ho manco pranzato. Mi pare che abbiamo finito verso le 2:30, 3:15, di mettere a posto tutto e di provarla. Già ci vuole il tempo, già. Per ogni cosa ci vuole il suo tempo. Quando ho stato aspettando, è andata a lavoro, ma se è uscita, è andata a fare la spesa. Sono arrivato lì. dopo a me, quando mi aveva telefonato, e la dice no, no, grazie, già è pulsato, ma poi me lo pulsa io, all'estero l'ha pulsato, sì, non ti preoccupi. E allora, se sei cimitiero, ti regalo a te, e non sei nato. Dove mettere le mani, capito? Capito, vai o me la rifatti io? Così si è. Però, sono il mestiere, non le tocco. Poi, se uno lo fa vedere una volta, poi sa dove mettere le mani. Io non l'avevo mai fatto, comunque, vabbè, smontarla e fare, io devo fare, pulirla, sì. Però, toccare i parametri, no? Io ho guardato cosa, come ti ha fatto, come te non ha fatto, mi ho guardato sempre tutto la volta che l'ho chiamato. E infatti mi aveva verniciato anche il pannello di ghisa che c'è all'interno. E la gente cosa lo vernicia fa, intanto unisce e dice no, questa dura, col tempo ne esce, non esce subito. Perché vernice alte calorie. E capito, ed è verniciato, quella sembrava nuova di negozio la stufa. E c'è una bomboletta che è nera e serve per verniciare proprio dentro lì, perché era nero, no? Ed è vernice per alte calorie, con un poco non è vazzinuta. Con il tempo poi sbiadisce un po' il colore, capito? E la gente vabbè, e dice è per figurare che è sempre nuova, nuova e nuova. Ma la gente va, non mi sta lì. Però uno volendo farselo me lo compro e lo faccio. Ma cosa mi sono di una città, intanto da voi la senti, con un tempo diventa tornato grigio. Infatti. E vabbè, grazie a te, si fanno pagare, così. La chiamata, molte volte Mario non c'ha niente, una cazzatina, e ti richiedono sempre quei 40-50 euro. E allora, ma figurati io, quando mi chiamavano, mi davo 20 euro a ciambattere una ginga, noi gli domandava quanto vorresti fare meno, 80 euro, 120 euro, ma buffoni. Da poi magari era il bovaccio peggio di me, ma... quello, vabbè. Perché se tu lo chiami anche per pulire i tubi, smontarlo e fare, una volta ce l'ha fatta mio fratello. Adesso siccome lui è molto bravo, mio fratello, lo dico a lui a vedere cosa mi dice. Sono la fiamma della squadra, ma... voleva aggiungere il pelle e te glielo aggiunto. Ehi, io stavo ascoltando un messaggio di Luca. Ho dato un messaggio a mio fratello, vediamo un po', lui ce l'è bravo. È venuto lui la prima volta, no? Questa qua, quella che c'aveva prima, c'era tutta smontata, tutta, i pannelli, tutto. Soffiato con compressore, pulita dei tubi, aveva portato anche i bastoni, tutto. Infatti, tu gli hai detto, Maria, comprateli, non stare lì a... poi, a, insomma, portare agli altri che ti portino la... attrezzatura per pulirla. Adesso glielo ho chiesto a lui, vediamo un po' cosa mi dice, ma lui la sa anche mettere a posto, i parametri e tutto, perché lui si fa tutto, non chiama nessuno. E allora di là tuo fratello, farà regalare 74 euro a un cane di buona, gli dà qualche cosa a lui. Ma infatti, adesso mi sa che, vabbè, no, dopo che chiudo qua lo chiamo, dai. Lo chiami e glielo dici, scusa, Poi una volta che l'ha pulita e tutto, pigli quel pelletto a mette, l'accende e la provi, no? No, è che... scusa, se da poi tuo fratello, o se non sa da cosa dipendi, ti lavanti, boh, magari se già... no, non va nulla la stufa, che non va nulla, sto dicendo che il pelletto che non va bene. Vuole solo pulita tutta adesso. Aspetta, grazie, è arrivato. Beh, grazie. Ehi, e beh, telefonatela. Vabbè, comunque ho chiesto informazione, vediamo un po' cosa mi dice. Aspetta, no, ho chiamato un messaggio su WhatsApp. Vediamo cosa mi dice. Vediamo su WhatsApp. Tanto si chiama il tecnico, si chiama il tecnico, se no. Ehi, aspetta un attimo. Granchetta? E a favore? E a favore? È vero. E poi, bella poi. Cucco triste. Ehi, ma ripeti te so che ci vengono i rocchi a mare. Eia. E la prima tizia si vede nei due piedi. Su, il telefono. Ma lui, per carità, ha colorso mi dà così. È vero. Il benedì, è vero. Il benedì, Lucas. A ti rimandi? No, no, non fa mandarti. Dice per il commento, non fa. I sono i bedi di Luca, che c'hanno a mare, sono andati in pari, e sono i bedi sui. O se no i sovraggeri che hanno autocostruito. Come? E io. Ma è vero. E io. Per carità. Tutta la settimana pioggia ha messo, ma dimmi tu. Aspettava a fare altri 2-3 giorni di pioggia e 4-5-6-8 giorni di sole, no? E allora, si era mandato a spada, si intende i nonni in Russia, gettano le porte nella stufa, a chi faceva la morello, la ricotta dentro la stufa. Bubu. Ah, se no, 11 mesi, perché non sopportavano il pianto, se la ricotta dentro la stufa. Roba, sei qua. È vero. E allora? A venire in fase Luca si fa la rabbia Maria. Gli ha fatto i salvini. Lui. E beh, che brano. Oh lui. Che lui. Allora vici sul processo che hanno fatto, anche tu che hanno morto. Se canne di cane da solo l'hanno dato, roba da macchina. Roba da chiudi, davvero me. Di che vero? Cracchecca. E beh, pollo. Tu cacchi. Mio bandai su canale, mi sono affamone. Cosa hai detto? Tu cala smarino. Tu cocchio fino. Luca Luca. Capiti di pollo. Pazzetta, pazzetta. Vabbè dai, tempo suo, mio, se vuoi fa, tempo suo. Stavolta cosa mangi, grazie, roba buona. Chiudo, che la zona, le 8:20, ce la sentiamo là. Buonanotte, buona cena e buon tutto, ciao ciao. Beh, bello bene. Allora, cosa mangi stanotte, grazie? Che dito veloce, non è a favore di nessuno, poi ma l'ho ripreso io, pum, e verrai tu sotto. Tortellini al ragù, uova con patate bollite, uova, soda e patate bollite, salsiccia e formaggio. Ah, visto, lei ce l'ho leggio. Ciao Pole. No. Se ti mangiami Pole, e tu cosa vuoi una mani? Una patata dentro all'altra. Buona, buona, tantiera vivo. Siamo la posta masticare, non ti preoccupa. E poi chi c'è revulo? La già cucina cosa? Tu è che non fai nulla. È vero, sicuro di sì. E mi ringrazio, grazie alla mattina della sera. E allora, cosa hai cucinato? Oggi, un po' di pasta asciutta mi sono fatto io. Noi c'aveva la polenta e poi il pollo di ieri ci siamo mangiati, te ne è rimasto ancora, pollo con le olive da confetto. Ma lo buono, è buono. Mi dopo che fai, non è che già non mi rimango con i mani secchi. Ehi, va bene, ci sentiamo domani che adesso chiudo, là. Ciao, ciao Luca Flippero, ciao. Ciao chi è in ascolto, Gian Maria, eccetera, eccetera. A domani se coincide. Ah, ti cioccolati adesso. Ciao Paolè, ciao grazie, buona cena, buon tutto. Mi raccomando, mi fai da bravo stanotte, dormi e mudumi. La qualcuno si ne campo da un vaccone. Ah, va bene, se cali di mano ogni tanto, e non di Giuseppe, ma ogni tanto. Poi come fai la valigia, poi capire. Eia, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, perché anch'io, che sono invitato da Graziano, ciao. Eia, Luca, non ne ho alle pollo, però. Ma sapevo che c'era anche il bello, eh. Il bello entra sempre. E bello. E vabbè. Chiamari. Chiamari. Che facendo c'è? Eia, di che c'è anche il padre ci deve essere? Buonasera comunque, Luca. Tore. Adi tu che non può farvi da, che se no... No, non riesci più a mangiare. È vero. E che te l'ho detto? Vero, Giommarì? Ecco. Dici il bello, tu ricevi, non lo saluti. Se non entra, cosa? Ha detto che se n'è andata, va. Lui è qua, bello, chiamalo. Ciao, ciao, sono invitato a casa di Graziano a mangiare patate bollite, ciao. Non lo so, no, Graziano ha serrato. Ma cosa dici con questo, Luca? Patate bollite. Buono. Hai dei biondi, eh? Oh, passate, se ne vuoi. Allora. Flippa. Che cosa stai facendo? Acqua di che cotto? Dimmi, giù cucciù, mi. È vero, sì. Giù cucciù. Ora giù, ti ha dato un colpo di zappitta e poi si è avviato. Ragazzo, male, cazzo, perché a me la mamma è là. Allora chiudo, cazzo. E sto giù, tiro che tutti, chissà. Sei così. Ciao, Giovanni, buona cena. Ciao Giomari, stammi bene, me è Luca, te ne dirà con tu, ok, ciao, ciao bello, statemi bene, ciao ciucucciù. Ciao To, ciao anche a te. Luca, fammi un po' di tirolo.